Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Sono sempre più numerosi i cinesi che sognano di avere un look occidentale e così migliaia di giovani ricorrono alla chirurgia estetica per modificare occhi a mandorla e nasi schiacciati. L'ultimo privilegio degli studenti cinesi sono i viaggi all'estero. I figli unici della nuova classe media durante le vacanze non espatriano però per imparare l'inglese. Decollano verso Thailandia e Corea del Sud e al college preferiscono la clinica privata. È il chirurgo a dover fare il miracolo che non riesce al professore: ottenere il massimo dei voti, passare il test per l'università o trovare il primo impiego. La Cina completa la sepoltura dell'obbedienza rivoluzionaria cominciando dalla faccia e i giovani scoprono che per fare carriera un naso dritto serve più di una laurea con lode. Sono anni che, travolto dal modello estetico imposto dalle star di Hollywood, anche l'Oriente sogna chiome ossigenate, occhi a ciliegia, mascelle da bulldog e seni al silicone. Una ricerca dell'Associazione dei Chirurghi Cinesi ha rivelato però che nel 2010, per la prima volta, gli interventi di plastica sono diventati la prima voce nella spesa scolastica delle famiglie. A Pechino e Shanghai, da giugno, l'80% delle operazioni estetiche viene effettuato su ragazzi tra 12 e 22 anni. Charter quotidiani rovesciano migliaia di teenager nelle capitali del sud-est asiatico, paradiso di chi vuol cambiare look. La crescita è del 30% all'anno e il Ministero della Salute prevede che in Cina entro il 2015 il 75% dei 4 milioni di lifting annui avrà come pazienti studenti di medie, superiori e università. Un sondaggio ha scoperto che i giovani cinesi impongono ai genitori di chiedere un mutuo per assomigliare ai calciatori del Barcellona o alle stelle della soap made in Hong Kong. Sono convinti che cancellare gli occhi a fessura, bocca a bocciolo, pelle di luna e viso a semi di girasole alzi la media scolastica, accorci la disoccupazione e garantisca il 35% di soldi in più in busta paga. I chirurghi spiegano che pressione ambientale e concorrenza sono tali che già prima di 10 anni bambini chiedono di eliminare palpebre doppie e nasi schiacciati, mentre le bambine pretendono seni da maggiorate. Le nuove generazioni dei cinesi non vogliono più avere una faccia da cinese, ma essere confuse con esotici meticci o, se possibile, con i mitizzati profili dei manager euroamericani. Quest'anno il business del cambio di bellezza brucerà in Cina il record dei 40 miliardi di euro e per la prima volta la maggioranza degli adulti, in un sondaggio online, ha dichiarato di condividere la volontà dei figli di affidarsi ai chirurghi. Anche i sociologi della Shenzhen University, sostenitori di libri e intelligenza contro bisturi e bellezza, si sono arresi davanti ai numeri. Negli ultimi 2 anni l'83% di chi ha passato i test d'ammissione si era prima sottoposto a un intervento estetico, mentre il 67% dei neolaureati rifatti ha trovato lavoro prima dei compagni acqua e sapone. Prima di Mao, nei secoli imperiali, l'aspetto orientale era ritenuto la perfezione della grazia. Con la rivoluzione comunista si è imposto lo stile proletario e militare, teso a collettivizzare, rendendoli indistinguibili anche i due sessi. Il successo globale, dice Gu Xiaoming, sociologo alla Fudan University, impone ora ai cinesi un aspetto internazionale. Essere unici e decidere il proprio sorriso è il nuovo metro del successo. L'Oriente si rifà per sembrare giovane, l'Oriente per diventare ricco. Forse è la sostanza che allontana oggi i due universi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giampaolo Visetti, Addio occhi a mandorla, la gioventù cinese vuole cambiare faccia, da Repubblica del 2 agosto. La chiamavano la tigre celtica grazie ad una crescita economica che sembrava inarrestabile. Ma ora che la crisi ha colpito anche l'Irlanda, la disoccupazione mette in fuga verso l'estero i figli del boom. La tigre celtica è diventata un gattino indifeso e spelacchiato. senza le unghie, capace di graffiare l'economia globale con una crescita del PIL da paese asiatico, l'Irlanda non è più la terra promessa per chi deve arrivare dall'estero, ma soprattutto per i suoi cittadini che in numero sempre più alto fanno le valigie e se ne vanno. E di irlandesi che hanno lasciato la loro isola di smeraldo, ce ne sono stati tanti nella storia, in particolare durante la terribile carestia ottocentesca che ha spinto milioni di persone a giocarsi tutto, prendendo una nave diretta verso l'America. Oggi non ci sono più quegli emigranti che se ne stavano stipati in terza classe per arrivare, se tutto andava bene, dopo settimane dall'altra parte dell'oceano. Ma gli ultimi dati di Eurostat fanno comunque preoccupare. Nel 2009 l'Irlanda è stata di gran lunga il paese europeo che ha perso più persone in quell'emorragia di emigranti. Sono andati verso economie migliori, soprattutto alla ricerca di un lavoro che avevano perso o non avevano mai trovato. Sono stati 40.000, quasi il doppio rispetto a quelli che hanno lasciato la Lituania, la seconda realtà con più emigrati dell'Unione Europea. Ma questo, come dicono gli esperti, è solo l'inizio. In base a una proiezione, se continueranno le grandi difficoltà che attanagliano l'Irlanda, a partire dal suo sistema bancario che si regge sulle stampelle dopo il collasso della crisi finanziaria arrivata dall'America, circa 200.000 persone in un paese di 4,5 milioni di abitanti andranno via entro il 2015. E chi se ne va non sono gli immigrati dell'Est Europa che tornano in patria dopo aver fatto i soldi. Il fenomeno c'è, come del resto anche nel Regno Unito, ma non spiega questa ondata migratoria. A fuggire sono soprattutto i giovani maschi irlandesi che, con una disoccupazione che galoppa inarrestabile al 13%, non vedono nessuna prospettiva e preferiscono cercare lavoro altrove. Alle spalle non lasciano nulla di interessante. Le famiglie sono piene di debiti, si sono ritrovate con le case che hanno perso valore, mentre il governo pensa ai tagli e a mettere mano a quel sistema fiscale generoso che aveva fatto la fortuna dell'isola. Tante critiche sono andate al Fianna Fáil, partito che da più di 10 anni guida il paese. I laburisti dicono che sono andati in fumo i progressi fatti da loro quando erano al potere, con l'economia che balzava in avanti e Dublino che era diventata la città ideale in cui trovare lavoro. C'è comunque qualche timido segnale di ripresa. L'Irlanda è uscita ufficialmente dalla recessione con una crescita del PIL pari al 2,8% nel primo trimestre dell'anno, ma gli esperti restano comunque pessimisti. E così tornano, anche se in forma minore, gli spettri di un passato che ha segnato per sempre una nazione. La grande carestia fra il 1845 e il 1849 uccise oltre 1 milione di persone. Quella tragedia diede l'avvio a una migrazione biblica verso le Americhe e ridusse di un quarto la popolazione. Nel 1840 sull'isola di Smeraldo vivevano 8 milioni di irlandesi, 10 anni più tardi erano meno di 6 milioni. Quel disastro gettò benzina sul fuoco dell'inestinguibile odio degli irlandesi per i coloni britannici che possedevano il 75% della terra coltivabile. Mentre il raccolto delle patate, colpite da una malattia, marciva sui campi, privando la popolazione indigena del suo alimento base, i proprietari terrieri continuavano ad esportare in Inghilterra bestiame, prodotti agricoli e cereali, e Londra rimaneva del tutto indifferente a quella strage che si consumava sull'altra sponda del mare d'Irlanda. Oggi, al posto delle patate, ci sono i microchip e gli inglesi non sono più così tanto odiati, ma resta il terrore di dover andare altrove per poter sopravvivere. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Alessandro Carlini «Dalla tigre celtica alla crisi, fuga di massa dall'Irlanda», da Libero del 30 luglio. Secondo i dati dell'Osservatorio sul turismo giovanile, solo un terzo degli adolescenti passa l'estate con i genitori. Gli altri, se non hanno la possibilità di andare in vacanza da soli, preferiscono stare in città e uscire con gli amici. Quali sono le tecniche di sopravvivenza per chi deve gestire un'estate con i teenager? Estate, ferie e figli adolescenti che tutto vorrebbero tranne che partire con i genitori. Teenager che sui loro blog lanciano appelli disperati. Lasciatemi in città, acquisto bene, ho internet, prometto, annaffierò le piante. Un problema che riguarda l'86% delle famiglie italiane e che può mandare a monte vacanze a lungo programmate e strappate al magro budget della crisi, come racconta in una lunga inchiesta il Times, che indica però anche alcune strategie per sopravvivere ad una vacanza con uno o più teenager. Qualche esempio? Portarsi al seguito un amico dei figli, tenerli occupati il più possibile e piegarsi a condividere, almeno ogni tanto, avventurose arrampicate, battute di snorkeling ed escursioni in canoa. E non guardare troppo l'orologio se la sera restano fuori un po' più a lungo. Infatti, perché girata la boa dei 12-13 anni, i ragazzini hanno idee chiarissime sul proprio divertimento, oppongono strenua resistenza a tutto ciò che li ostacola, e dopo i 14 anni, soltanto il 30% di loro condivide un pezzetto d'estate con mamma e papà, secondo i dati 2009 dell'Osservatorio sul turismo giovanile. Eppure nel 44% delle famiglie la decisione dove si va quest'anno viene presa collegialmente, addirittura sono i figli a scegliere nel 6% delle situazioni, anche se in fondo sono poi le mamme a gestire online itinerari e prenotazioni nel 30% dei casi. Numeri che dicono quanto la famiglia sia cambiata in Italia come altrove. Ma allora che fare? Rinunciare a questo scampolo di vita comune a favore di campi estivi, college, adulti da una parte e ragazzini dall'altra? Le ferie attese tutto l'anno si possono trasformare in risse familiari e incubi d'agosto. Tanto che alcuni anni fa la SIP, Società Italiana di Pediatria, aveva addirittura promulgato la Carta dei diritti del bambino e dell'adolescente in vacanza, dove si ricorda che se un teenager è già in grado di apprezzare le bellezze di un viaggio in posti nuovi o città d'arte, ha anche una grande esigenza di socializzazione, per cui sarebbe opportuno garantirgli una vacanza in cui abbia la possibilità di stare in compagnia non solo di adulti. Mica è facile, infatti, avere 13 o 14 anni e farsi dei nuovi amici subito, così come quando si era piccoli e bastava un castello di sabbia con il bambino dell'ombrellone accanto. Ed è questo il pensiero di Maurizio Tucci, responsabile comunicazione della Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza, luogo d'osservazione privilegiato per intercettare umori e sentimenti dei ragazzini nell'età incerta. Spesso gli adolescenti confessano che il loro vero desiderio sarebbe quello di restare in città, magari da soli. E un grande errore dei genitori è quello di continuare ad organizzare le vacanze come se i loro figli fossero ancora bambini. I teenager, invece, hanno bisogno in primo luogo della socialità, ma hanno un'età in cui non è così facile fare amicizia. Un consiglio strategico è quello di portare con sé in vacanza un amico dei figli. In due si è più forti e ci si apre al mondo. Oppure scegliere situazioni tipo club o villaggio dove grazie agli animatori le amicizie vengono facilitate. Non solo. Il segreto, dicono gli esperti, è quello di progettare le vacanze insieme. Spiega Claudio Visentin, che ha da poco fondato una vera e propria scuola di viaggio. Non sono d'accordo con la visione per cui i bambini e i ragazzi devono essere sempre inseriti all'interno di un contenitore organizzato, con attività predefinite e con ogni momento occupato. Anche perché la noia dell'adolescenza è una condizione interiore e poco può scalfirla. Anzi, una vacanza lenta, ma dove sia possibile avere delle esperienze nuove, può essere un vero antidoto a questa inquietudine. Perché già a 12-13 anni, gli adolescenti sono dei magnifici compagni di viaggio, curiosi, attenti. L'importante è suscitare la loro attenzione con vacanze itineranti. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Maria Novella De Luca, Estate col teenager, istruzioni per l'uso, da Repubblica del 3 agosto. Troppe vacanze scolastiche fanno male. L'allarme arriva dagli Stati Uniti, dove un recente studio rivela che in assenza di opportunità formative o corsi di recupero, lo studente rischia di perdere 2/3 delle conoscenze accumulate durante l'anno. Attenti alle vacanze. Più se ne fanno, più si diventa asini. In brutale ed estrema sintesi è questa la tesi che sostiene una ricerca della Johns Hopkins University. Tutta la colpa è di Tom Sawyer, il popolare personaggio dell'omonimo romanzo di Mark Twain, il quale associava l'anno scolastico all'oppressione e la vacanza estiva alla creatività, criminalizzando in qualche modo la scuola. In realtà i ragazzi americani fanno 4 settimane di vacanza più dei loro colleghi di altre parti del mondo, cioè dei paesi europei. E questa lunga cesura determinerebbe un summer learning loss, cioè una perdita di conoscenze che può arrivare a 2/3 di quanto appreso durante l'anno. Questo è lo scenario americano, ma con delle varianti sociali non indifferenti. Il rischio di disperdere in estate quanto accumulato in inverno riguarderebbe soprattutto le classi economicamente e culturalmente meno attrezzate e quindi più bisognose di essere sostenute, in quanto i bambini di questo insieme sociale vivrebbero l'estate come un break totale rispetto a qualunque esperienza di apprendimento. Chiuso il libro a giugno, insomma, fino all'autunno solo TV e PlayStation. I ragazzi delle classi agiate, invece, avrebbero accesso a tutti quei percorsi formativi tipici dell'estate da ricchi: summer school, corsi di lingua, viaggi, libri, eccetera. Il senso è: attenti a dare troppe vacanze, ma soprattutto attenti a darle tutte insieme. Sarebbe meglio diversificare nell'arco dell'anno in maniera da tenere sempre i bambini e i ragazzi in un percorso formativo. In effetti, dati alla mano, negli Stati Uniti si fanno più vacanze che in Europa. Ma il problema poi va declinato a seconda degli stati e delle scuole. Le differenze con l'Europa ci sono. La Francia, per esempio, ha un paio di mesi di vacanze ad estate più altre 3 settimane durante l'anno, assegnate in materia diversa a seconda delle regioni. Ma anche un sistema modulare di didattica, che vuol dire un programma scolastico che può essere facilmente articolato in brevi periodi, con costanti momenti di valutazione. E questo consente di distribuire meglio le vacanze senza lasciare lunghi periodi morti. In Europa, peraltro, quasi tutti gli stati fanno così. Un calendario nazionale di massima e uno regionale più articolato. In genere, per un totale di 10-12 settimane di vacanza complessivamente. In Germania sono affidati ai singoli land. In Spagna esiste, come da noi, un calendario nazionale declinato sul territorio. In Inghilterra, invece, l'autonomia delle scuole è massima e ciascuna decide per sé. L'Italia corre lo stesso rischio degli Stati Uniti. Vacanze troppo lunghe d'estate, anche se, nella pratica, la scuola si ferma solo ad agosto. Ci sono i corsi di recupero dei debiti formativi a luglio e poi, nelle grandi città, i comuni organizzano i centri estivi, che quando sono fatti bene, sono anche laboratori di didattica. Esistono dunque iniziative che protraggono l'apprendimento anche in estate, ma sono fatti episodici. E anche da noi esiste il rischio della differenza di classe. Molti leggono, molti viaggiano, molti fanno corsi di lingua. Ma tutti gli altri? Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Raffaello Masci, Le vacanze lunghe ti fanno asino, dalla stampa del 29 luglio.